sono le ore 9:58 di sabato 3 febbraio. Io oggi avrei voluto parlare di tutt'altro, ma in realtà c'è questa bella sorpresa di tante persone che mi stanno scrivendo e anche telefonando. Vediamo chi è. Quindi abbiamo anche assistito a un errore telefonico in diretta. La puntata si fa davvero straordinaria, spumeggiante, scherzi a parte, ripartita. Io sto impazzendo qua con il Bluetooth, l'autoradio. No, stavo dicendo, e la bella sorpresa è che ci sono delle persone che mi stanno scrivendo, perché alcuni per farmi complimenti, come Elena Crotti, che ringrazio, altri per chiedermi che cosa vuol dire pendo deliri come Dio mira, e altri anche per dei messaggi tipo questo di Fabio Benincasa, no? Che salutiamo questa nascita di questo, di questi nuovi pendo deliri, insomma. Ecco, ecco il nuovo format pavolinico, dice Fabio Benincasa, il che mi fa pensare che non sia chiarissimo a tutti esattamente qual è il retroterra, l'epopea di pendo deliri che va avanti da 20 anni. E adesso io chiaramente invito tutti quelli che già la conoscono a skippare serenamente questo podcast e ascoltarsi, che so, Cecilia Sala, Alessandro Barbero, queste cose molto più interessanti, perché sto per ripetere una cosa con cui io credo sfranto gli Zebedei decine di migliaia di persone, raccontando questa cosa dei pendo deliri, che allora mi auguro che chi la sa abbia già staccato. Adesso mi sento più tranquillo e posso di nuovo iniziare a raccontarlo. Tutto nasce nel 2003, quando, diciamo, succedono un po' di cose. Io ho deciso, per dare una svolta alla mia carriera, ai tempi ci credevo tantissimo, andavo in giacca e cravatta in ufficio e accetto questo bellissimo lavoro da quadro, come così uomo della comunicazione di questa azienda di Pomezia. E niente, però appunto il problema è che è a Pomezia e io invece vivo a Loggiata, quindi a circa 70 km, e ai tempi non esisteva questa cosa meravigliosa che è lo smart working. Bisognava officiare a questo rito fisico del mondo degli atomi, cioè trasferire le cellule di cui siamo composti in un altro luogo, altrimenti non è considerato lavoro. E quindi io tutte le mattine dovevo prendere la macchina, una bellissima auto aziendale, per recarmi a Pomezia, che non conoscevo, per me era davvero un altro mondo. E questa cosa mi sembrava così assurda nella mia piccola microeconomia, che mi sembrava quasi che facesse da contraltare all'assurdità di quello che stava nel frattempo succedendo nel paese. Eravamo nel pieno del berlusconismo e questa cultura deteriore si stava sostituendo e imponendo rispetto a ciò che magari qualcuno provava a costruire come discorso pubblico prima appunto dell'avvento di un signore che riteneva che tutto dovesse scendere a livello della comunicazione con un bambino di 3 anni. Poi il fatto che quella persona avesse ragione, per certi versi, mi ha persino spaventato ancora di più, e nel frattempo appunto io dovevo andare a Pomezia per lavorare. È stato un periodo di grandi disillusioni, ma anche di grandi scoperte, perché io attraversavo non la città per arrivare a Pomezia, ma tutti i margini occidentali, quindi la via Cassia, il raccordo anulare, la via Pontina, per arrivare in questo luogo che già era desolato di suo, ma soprattutto adesso, al di là insomma di quanto Pomezia rappresenti un po' il grumo di tutte le sconfitte individuali e collettive, c'era questo mondo marginale, che poi sarebbe stato raccontato con molto più talento da Francesco Rosi in Sacro Grano, questo mondo di storie che emergeva da luoghi privi di senso, no? Qualcuno li chiamava anche non luoghi, il raccordo anulare, i centri commerciali, gli autogrill, insomma tutte cose che a un certo punto io decisi di raccontare, cominciai a raccontarle perché tutti i miei amici avevano un blog, volevo farlo anch'io in un blog ma non avevo il tempo e quindi decisi di registrare queste cose in dei file audio che attaccavo al mio blog. Questo nel 2003, prima che qualcuno inventasse il podcasting. E nel 2004 Dave Winer, che è anche uno degli sviluppatori dell'RSS, diciamo, inventa un modo per inserire nei feed RSS anche i file audio e video, e quindi di fatto dà il via alla possibilità di aggregare delle serie di audio e di video, e funziona molto bene soprattutto con gli audio perché cominciano a circolare questi lettori come l'iPod. Questa tecnologia viene chiamata podcasting da un DJ di MTV che si chiama Adam Curry, e si comincia nel mondo, cominciano a emergere questi podcast. In Italia, lo voglio chiarire, Pendo Deliri non è stato il primo, c'è stato per esempio Kix di Ludovico Magno Cavallo e dei fratelli in realtà Magno Cavallo, che poi se non sbaglio, non so se insieme o soltanto uno dei due, fondarono il network Blogo, però erano dei grandi sperimentatori di queste tecnologie nuove, quindi anche loro per primi in Italia, no, provarono il podcasting, e poco dopo lo fecero anche gli amici del caffè Nichilismo di Radio NDK, che era una web radio che andava su Shoutcast, e cominciarono a diffondere le puntate di queste bellissime e divertentissime trasmissioni in podcasting, e per terzo credo di essere arrivato io con questa cosa, che non era certo una trasmissione radiofonica, era uno che parlava e raccontava questo mondo marginale, che secondo me però rivelava molto anche di cose più grandi che stavano succedendo nel paese. Poi lì dentro ci infilavo davvero qualsiasi riflessione, e questa cosa è andata avanti per circa un anno, la prima serie, 2 anni la seconda serie, poi la terza già comincia a perdere un po' i caratteri originari, perché migliorano i mezzi di registrazione, quindi si comincia a sentire meglio, mentre prima tutto sommato era un miscuglio abbastanza inestricabile di suoni gracchianti della macchina, del traffico. La quarta serie che esce addirittura nel 2018, molto più tardi in realtà, non ha molto a che vedere con le origini di Pendo Deliri, perché addirittura c'era il montaggio, c'era molta più attenzione al suono, e poi si parlava di una vita non più così infelice, cioè la mia vita anche era cambiata, nel frattempo avevo cominciato a scrivere dei libri, a andare ai festival, era tutto molto più bello e autocelebrativo e autoreferenziale, e quindi quella è una serie di soli 20 episodi perché mi resi conto rapidamente che non c'era più quella disperazione che forse era il sale di Pendo Deliri che lo rese comunque anche abbastanza ascoltato, no? C'erano parecchi abbonati e io ne ero molto contento, perché in realtà io speravo di essere un po' seminale, cioè speravo che tante altre persone avrebbero fatto lo stesso, avrebbero preso un microfono e magari si sarebbero raccontate, no? In una specie di dialogo asincrono. E niente, sono ripartito adesso con la quinta serie, non è più un podcast, sono degli audio su Telegram. È bello però vedere che tante persone si sono iscritte, però io continuerò, diciamo così, a non inseguirle, perché quello che in realtà serve forse è la diversità, no? Avere dei posti dove trovare cose che possono anche non funzionare, perché se devono funzionare sempre per tutti, allora poi dopo finiscono per somigliarsi tutti.